Ipotizzate di avere un'immaginazione così fervida e lucida da creare un mondo tutto per voi. Un posto in cui vi sentiate comodi, in cui nulla fa più paura, in cui le cose girano nel verso in cui devono girare e nessun altro. Cercate di concentrarvi su tutto questo e poi potete incontrare Agostino. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:02, è giovedì 3 febbraio 2011. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Era una di quelle domeniche di mezz'estate in cui tutti se ne stanno seduti e continuano a ripetere: ho bevuto troppo ieri sera. Ho bevuto troppo, gemeva Donald Westerhasi. Tutti abbiamo bevuto troppo, gli faceva eco Lucinda Merrill. Deve essere stato il vino, osservava Helen Westerhasi. Ne ho bevuto troppo di quel vino rosso. Tutto questo avveniva ai bordi della piscina di casa Westerhasi. La piscina, alimentata da un pozzo artesiano con un'alta percentuale di ferro, aveva l'acqua di un pallido colore verdastro. Era una bella giornata. Il sole era caldo. Neddy Merrill era disteso vicino all'acqua verdognola, una mano immersa nell'acqua e l'altra stretta intorno a un bicchiere di gin. Era un uomo snello, con quella particolare snellezza della gioventù. Merrill poteva essere paragonato a una giornata d'estate, in particolare alle sue ultime ore. Aveva appena finito di nuotare e ora respirava profondamente. Abitava a Bullet Park, una quindicina di chilometri a sud, dove le sue quattro splendide figlie dovevano avere terminato di pranzare e stavano forse giocando a tennis. In quel momento gli venne l'idea che, seguendo un percorso ad angolo in direzione sud-ovest, avrebbe potuto arrivare a casa sua a nuoto. Ho scoperto da poco questo racconto. L'ho scoperto domenica scorsa, fondamentalmente, quando insieme a Claudio e Giorgio ho incontrato Agostino. Il racconto è molto più lungo. Si intitola Il nuotatore e l'autore si chiama John Cheever. Non vi spiego esattamente di che cosa parli questo racconto, ve lo spiegherò più avanti attraverso le parole di Agostino, che è l'amico che ho incontrato nel centro di igiene mentale di cui vi parlavo ieri. Ho scelto questo racconto oggi, oddio, non l'ho scelto, semplicemente me l'ha suggerito Agostino, direi, perché nel momento in cui io gli ho chiesto di raccontarmi qualcosa di lui, lui così, dal nulla, forse in preda a qualche piccolo fantasma che aveva in testa, mi ha parlato di questo racconto. Io immediatamente, appena sono arrivato a casa domenica sera, l'ho cercato e me lo sono letto più di una volta, e oggi vi ho letto questa intro e poi vi leggerò la fine di questo racconto. Se nel frattempo avete voglia di andare a cercarvelo, cercatevi su internet, lo trovate, Il nuotatore di John Cheever. Forse così a rileggerlo e a riguardarlo sembra veramente il racconto perfetto. Proprio in occasione di questa puntata, in occasione del fatto che Agostino, quando gli ho chiesto di raccontarmi come stava, fondamentalmente, quindi di dirmi qualcosa di lui, lui mi ha citato un racconto, oggi ho pensato di fare proprio questo con tutte le persone che sono all'ascolto in questo momento qua, con quelle che lo possono fare, ovviamente, quelle che sono in macchina magari è un pochettino più difficile. Provate a pensare un secondo ad un brano, a un passaggio di un libro, di un racconto, magari l'intro di un libro, o magari la parte centrale, la parte finale, o quattro righe che vi sono rimaste impresse, magari di quelle che vi siete segnati, se siete di quelli che segnano a matita i libri. Ecco, un brano, un piccolo brano di un racconto o di un romanzo che racconti qualcosa di voi. 800240024 349-238-6666. Agli sms credo sia difficile scrivere esattamente tutto il passaggio che avete in testa, però potete magari mandarmi il titolo, ad esempio. Se invece avete voglia proprio di leggermi, magari ce l'avete davanti, magari siete in casa e potete allungare una mano e prenderlo dalla libreria, magari invece ce l'avete sul computer e siete al lavoro e avete voglia di leggermelo, non troppo e non una pagina, altrimenti non ne veniamo più a capo, al telefono fatelo oggi, 800240024. Quel racconto che in qualche modo, quel passaggio che in una certa maniera racconta qualcosa di voi, proprio come il nuotatore è per il mio amico Agostino. Mi sono già arrivati dei messaggi di ascoltatori a cui ho chiesto proprio questo, di raccontarmi alcuni passaggi di libri o di racconti che li rappresentano. Ve ne leggo alcuni tra tutti, tra i primi. Esther mi racconta un pezzo che è tratto da Il luogo delle ombre di Dean Koontz. Mi chiamo Odd Thomas, Anche se in quest'epoca in cui la fama è l'altare al quale si inginocchia la maggior parte della gente, non so per quale motivo dovrebbe importarvi chi sono o anche solo se esisto. Non sono una celebrità. Non sono figlio di una celebrità. Non sono mai stato sposato. Non sono mai stato maltrattato. E non ho mai fornito un rene da trapiantare a un personaggio famoso. Inoltre, non ho alcun desiderio di essere celebre. Lei si chiama Esther e il passaggio è preso da Il luogo delle ombre. Ve ne leggo qualcun altro, proprio perché questo è un modo per provare a conoscere un pochettino le persone che ascoltano questo programma, visto che di fatto tutti i giorni io vi racconto un pezzo della mia storia, e visto che con Agostino è stato così... così giusto il racconto che lui mi ha citato quando io gli ho chiesto come stava, oggi mi sembra proprio il modo giusto per capire anche chi siamo attraverso quello che leggiamo. C'è un altro passaggio che vi voglio leggere, che è di Elisa, la ragazza che ormai è praticamente credo abbia una sua fanpage, che è l'ascoltatrice metallara vicentina, e che mi ha dato un pezzo del sogno di una notte di mezza estate. Ed è proprio per questo, vedi un po', che io mi sento d'amarti sempre di più. Demetrio, sono ridotta il tuo segugio, che più lo batti e più ti viene intorno. Trattami come fossi il tuo spaniello. Trascurami, disdegnami, percuotimi, smarriscimi. Ti chiedo solo questo, che mi consenti, indegna come sono, di seguirti. Qual più modesto posto ti posso domandare nel tuo cuore che d'essere trattata come un cane? E ancora lo tengo come un privilegio. Elisa, e visto che ci siamo, e visto che ieri è arrivato il suo libro, e visto che alla quarta volta che dico "e visto" ho fatto il record, insomma, ho tra le mani il suo libro. È il libro di Elisa Frighetto, che vi ricordo è una giovane autrice vicentina che oltre a scrivere lavora, fa l'operaia, non mi ricordo più che cosa faccia Elisa, forse non me l'ha mai detto, fa solo l'operaia. E visto che ce l'ho tra le mani, e visto che in qualche modo questo libro racconta qualcosa di lei, io vi voglio leggere l'incipit. Il libro si chiama Il lungo inverno di Saffron. Saffron era un piccolo villaggio nascosto nelle nevi gelide delle terre dell'est. Dall'esterno si scorgevano solo le mura grigie, costruite di massiccia pietra dagli antichi, per tenere lontani i lupi e gli altri pericoli provenienti dalla foresta. Ma una volta valicato il cancello di ottone, le piccole graziose case abbracciavano la vista dei viaggiatori. Le vie acciottolate di Saffron erano strette, coperte di ghiaccio e di neve, si inerpicavano contorte tra le umili abitazioni dei laboriosi abitanti del borgo, fino al grande palazzo d'Ebano, sede del potere. Elisa, non riuscirò mai a ringraziarti semplicemente per esserti palesata qui Io sono qui. È arrivato il momento di raccontarvi, di continuare con quella storia lì, la storia dei quattro amici che si ritrovano dopo tutti questi anni e soprattutto ritrovano Agostino. Immaginate di vivere in un mondo che non è questo. Provate a pensare di non riconoscere le persone che vi circondano, o di riconoscerle in parte, ma di attribuire loro nomi, facce e personalità diverse dalla loro. Cercate di pensare che casa vostra, i vostri familiari, i vostri amici, tutto quello che avete di più caro al mondo, improvvisamente, non vi appartenga più. Ipotizzate di avere un'immaginazione così fervida e lucida da creare un mondo tutto per voi. Un posto in cui vi sentiate comodi, in cui nulla fa più paura, in cui le cose girano nel verso in cui devono girare e in nessun altro. Cercate di concentrarvi su tutto questo e poi potete incontrare Agostino. Ecco, questo è stato quello che il medico ci ha detto domenica mattina prima di portarci in stanza ad Agostino. Il corridoio che abbiamo percorso subito dopo mi è sembrato il più lungo che io abbia mai fatto. Davanti il medico e Claudio, dietro io e Giorgio Piacentini. Nessuno parlava. Sembrava di andare a trovare un cadavere, più che una persona malata. E dopo il corridoio, finalmente, siamo arrivati nella stanza della TV. E come sempre succede quando ti prefigurano qualcosa di terribile, la realtà è sempre meno spaventosa. Quando hanno cercato di prepararti ad un evento o a un incontro terribile, e tu lo hai immaginato, te lo sei disegnato in testa, quando poi lo vedi, quando lo vedi con i tuoi occhi, realizzi che è molto meno peggio di quanto pensassi. Forse perché la nostra mente ha questa tendenza qui, quella di ingigantire le cose, fare diventare più grandi di quanto non siano realmente. E infatti quando ho visto Agostino, l'unica cosa in cui mi è parso davvero diverso è stata la corporatura. Era spropositatamente grasso. La stanza della TV era grande quanto una palestra delle scuole medie. È incredibile come il ricordo che si ha di un luogo, oppure la sensazione che si lega a quel posto, rimane sempre chiusa nella prima immagine che incrociamo di quel luogo lì. Un'immagine che ci si inchioda nella testa, come una bruciatura sulla pelle. Quell'immagine per me è stata quella della signora con la pelliccia. Prima di vedere Agostino seduto a destra dell'ingresso, nell'osservazione della stanza, il mio sguardo è partito da sinistra. E lì stava la signora con la pelliccia. Il riscaldamento era acceso, ovviamente, quindi la signora non aveva alcun bisogno di avere addosso una pelliccia. Ma lei era seduta su una sedia, in modo ordinato, con le mani sulle ginocchia, come se stesse aspettando una chiamata, e le mani fossero pronte a spingere sulle gambe per potersi alzare. La cosa però che faceva impressione della signora con la pelliccia era quello che lei non stava facendo. Non stava facendo niente. Lo sguardo era fisso di fronte a sé. Non muoveva un dito, non batteva le ciglia, non parlava, non ascoltava. Sembrava quasi che non stesse pensando proprio a niente. Agostino invece era seduto su una poltroncina di velluto verde dalla parte opposta della signora con la pelliccia. Quando ci ha visto ha sorriso, ma credo che abbia sorriso a Claudio e al dottore, anche perché io e Giorgio eravamo dietro di loro. Poi i due davanti si sono aperti e Agostino ci ha visto. E noi abbiamo potuto vedere lui. Aveva addosso una camicia a scacchi di flanella, dei pantaloni di velluto e delle scarpe da montagna. Aveva i capelli corti e la faccia rotonda, come un pallone. A occhio poteva pesare tra i 100 e i 120 kg, ma non lo so, forse di più. Io ho cercato di fare la faccia più impassibile possibile, come se non fosse di per sé già strano incontrare un amico che non vedi da 20 anni, senza aggiungerci che è in un centro di igiene mentale e pesa 60 kg più dell'ultima volta che l'hai visto. Lui ha guardato me e Giorgio e con la voce che mi ricordavo ci ha detto: «E voi due? Che ci fate qui?» Ci siamo salutati e siamo usciti. Agostino voleva fare una passeggiata. Quando siamo usciti c'era più freddo di quando eravamo entrati. Lui si muoveva con una leggerezza che tutta la sua mole non lasciava presagire. Parlava soprattutto con Claudio, forse perché lo avevo visto più di frequente o forse perché era un prete. Agostino non sembrava un pazzo. Ammesso che la parola pazzo significhi qualcosa, non riuscirei a dire che c'era qualcosa che riuscissi ad associare all'idea di follia, nemmeno a quella più romantica, nemmeno a quella più eroica di chi ha mollato gli ormeggi della vita e ha deciso di andare alla deriva in acque sconosciute. Nessuno ha mai parlato di Gaia. Nessuno ha parlato di quel pomeriggio in cui lui ha visto Giorgio che la baciava, nessuno ha accennato alla moto che finisce fuori strada e all'interminabile agonia di quella ragazza. Nessuno ha detto nulla. Tanto meno lui. Giorgio era quello più a disagio di tutti e quindi non ha detto una parola. Abbiamo chiesto il permesso al medico di turno e siamo usciti a pranzo. Agostino si è infilato un giaccone e Claudio ci ha portato alla trattoria del paese. Abbiamo mangiato polenta e gorgonzola con un uovo fritto sopra. E poi si è parlato di questi ultimi 20 anni, di quello che facevo io, di quello che faceva Giorgio, mentre non abbiamo parlato di quello che lui aveva o non aveva fatto. In un paio di momenti è affiorata qualche scheggia del mondo in cui lui vive. Ha accennato a persone che non conoscevamo e che probabilmente non esistono. Ha parlato di un viaggio fatto un mese fa, che non poteva avere fatto, visto che erano quasi 2 anni che era chiuso lì dentro. E poi, mentre bevevamo il caffè, a me è preso un attimo di malinconia. Qualcosa che non so da dove arrivava, ma che mi ha portato a fare una domanda che era poi la madre di tutte le domande. La domanda che di solito si fa appena si incontra una persona che non si vede da un sacco di tempo soprattutto. La domanda che viene quasi istintiva a fare quando si stringe una mano. E la domanda è: ma tu, Agostino, come stai? Ecco, per un attimo ho percepito la tensione che ha come ingabbiato il tavolo e tutti quelli che ci stavano seduti intorno. Agostino è rimasto in silenzio per qualche secondo. E poi mi ha chiesto: conosci la storia del tizio che attraversa le piscine per tornare a casa? Io ho fatto finta che tutto fosse a posto e gli ho risposto di no. Mi sento come il protagonista di quel racconto, quello del nuotatore. Un tizio che decide di tornare a casa attraversando a nuoto le piscine. All'inizio della storia lui si trova a casa di amici, è estate e fa caldo. Lui è un uomo in gran forma, ha una bella famiglia, si gode la vita. Quello però è un pensiero che lo perseguita da qualche tempo: attraversare tutte le piscine della contea tuffandosi in ciascuna. Attraversarla a nuoto, uscirne, raggiungerne un'altra, tuffarsi, attraversarla a nuoto, uscirne e così via. Facendosi tutte le piscine di amici e vicini che lo portano a casa sua. La prima l'affronta con grande forza, incontra i proprietari, vecchi amici, persone che conosce da una vita, attraversa feste, pranzi, nuota in tutte le piscine, finché a un certo punto arriva un temporale. E lui è costretto a chiudersi in un capanno. Quando ne esce però il tempo è cambiato. Fa freddo. Man mano che prosegue, lui si sente sempre più stanco. Ecco, mentre Agostino mi raccontava, io stavo ad osservarlo molto attentamente. Avevo capito che questo era un romanzo, oppure un racconto che lui aveva letto. Quindi raccontava una storia scritta da qualcuno. Ma mentre andava avanti con la trama, in quella trattoria di montagna, con la neve che aveva appena smesso di scendere, lui si trasformava in quel nuotatore. Ecco, poi ad un certo punto il nuotatore arriva alla piscina del suo vicino di casa e quasi non riesce ad attraversarla perché è stremato. Si sente stanco, infreddolito, ha i muscoli rigidi e lui inizia a domandarsi se ce la farà mai ad attraversare quell'ultima piscina prima della sua. E qui Agostino con grande maestria si è fermato e mi ha detto: e sai com'è andata a finire? No, gli ho detto, com'è andata a finire? Si tuffò nella piscina e la attraversò a nuoto. Ma quando tentò di starsi sul bordo, si accorse che non aveva più forza nelle braccia e nelle spalle. E pian piano raggiunse la scaletta e la salì. Voltandosi a guardare dietro di sé, vide un giovanotto nello spogliatoio, illuminato. E mentre attraversava il prato già buio, sentì nell'aria l'odore di crisantemi, delle calendule. Qualche persistente odore autunnale, penetrante come quello del gas. Alzando lo sguardo vide che le stelle erano già spuntate. Ma perché gli sembrava di vedere Andromeda, Cassiopea? Dove erano finite le costellazioni di mezz'estate? E allora gli venne da piangere. Era forse la prima volta che piangeva nella sua vita di adulto. E sicuramente era la prima che si sentiva così infelice, infreddolito, stanco e sgomento. Ecco di che cosa aveva bisogno. Di qualcosa da bere, di compagnia, di vestiti puliti e asciutti. Ma anche se sarebbe potuto arrivare direttamente a casa sua tagliando la strada, si diresse invece verso la piscina dei Gilmartin. E qui, per la prima volta in vita sua, non si tuffò in acqua, ma scese la scaletta nell'acqua gelida e con le lente bracciate laterali che aveva imparato da principiante, nuotò attraverso la piscina. Poi si trascinò barcollando fino alla casa dei Clyde e percorse ancora la loro piscina, fermandosi continuamente a riposare con la mano sul bordo. Quando salì la scaletta si domandò se ce l'avrebbe fatta a ritornare a casa. Aveva fatto quello che si era proposto, aveva attraversato a nuoto la contea, ma ora era così indebolito dallo sforzo che il suo trionfo gli appariva senza senso. Curvo, aggrappandosi ai paletti del cancello per sostenersi, imboccò finalmente il vialetto che conduceva a casa sua. Trovò la casa immersa nel buio. Era così tardi che erano già tutti andati a letto. Forse Lucinda si era fermata a cena a casa dei Westerasi e le ragazze l'avevano raggiunta lì o erano andate in qualche altro posto, ma non erano d'accordo di rifiutare la domenica tutti gli inviti per rimanere a casa. Provò ad aprire le porte del garage per vedere quali auto erano dentro, ma le porte erano chiuse a chiave e sulle mani gli rimase la ruggine delle maniglie. Mentre andava verso la porta di casa vide che la violenza del temporale aveva strappato un tratto di grondaia e ora pendeva sopra la porta come la bacchetta di un ombrello. L'avrebbe fatta aggiustare il mattino dopo. La casa era chiusa a chiave e pensò che doveva averla chiusa qualche stupida cuoca o qualche cameriera, finché non ricordò che già da un po' di tempo non avevano più cuoche e cameriere. gridò, batté con i pugni sulla porta, tentò di abbatterla a spallate e poi, guardando attraverso le finestre, vide che la casa era disabitata. Ecco, questa è la storia che mi ha raccontato Agostino. Lui in realtà me l'ha raccontata, mi ha fatto un veloce riassunto. Quello che vi ho letto in realtà è la parte finale di questo racconto, che si chiama Il Nuotatore, mentre l'autore è John Cheever. Mi sono arrivati tra l'altro dei messaggi al 349-238-6666 che mi dicono che da questo racconto breve, eccolo qua, hanno tirato fuori un film con Kirk Douglas e Burt Reynolds come protagonista, che in italiano si chiama L'Uomo Nudo, mi pare, adesso l'ho perso, vabbè. Invece mi scrivono: il mio libro è I Dolori del Giovane Werther, l'ho letto, mi ha cambiato la vita, sono uscito e mi sono trovato un'amorosa e degli amici. Bravo Marco. Non c'è niente di più insopportabile dei luoghi in cui siamo stati felici. La spiaggia, Cesare Pavese. Philip Roth, non mi ricordo il titolo, comunque la frase di Cristina è: mentire è costringere l'altro ad agire in base ad informazioni sbagliate. Enzo da Napoli mi scrive invece, la sua frase è da un romanzo di Coelho: credi nei sogni ed essi si realizzeranno, ovviamente. Andiamo però a sentire un'ascoltatrice che oggi mi ha scritto un messaggio su Facebook dicendomi che la frase che le era piaciuta così tanto, che era anche il titolo di un libro, abbiamo Giorgio al telefono? Ah, ok, allora mi sono confuso, quindi andiamo direttamente da Giorgio. Allora, pronto Giorgio? Pronto. Ciao, buongiorno. Ciao. Scusami se ho fatto confusione con Paola. Niente. Evidentemente avevo sbagliato le fotocopie. Giorgio, tu mi hai mandato un pezzo di un libro di Paola Mastracola. Sì. Dimmi dove va l'accento, scusami. Non lo so neanch'io. Ah, benissimo. Io dico Mastracola. Mastracola, perfetto. E si usa quella forma per cui cerchi di metterlo su tutte le lettere e su tutte le sillabe in modo che non capisci dove l'hai messo. Il titolo del romanzo è Che animale sei? Sì. Ti ho chiesto di accorciarlo, però quando vuoi parti a leggerlo. Vai. Vado, scusate l'emozione. Ma sì, allora, di che? Per prima cosa, l'anatra portò nella tana lo spazzolino da denti. Lo preparò per bene, lavandogli ogni singolo pelo e profumandolo lievemente con un'essenza al gelsomino. Indi lo adagiò su un cuscinetto di bambagia e solennemente gli fece varcare la soglia della tana del lupo. Questo era il passo. Ti ringrazio molto. Giorgio, tu che cosa fai nella vita? Quanti anni hai e quando hai letto questo libro? Allora, io ho 22 anni, studio all'università e l'ho letto 2 anni fa. Che cos'è che studi? Studio farmacia. Ma è farmacia o chimica e tecnologia farmaceutica? No, farmacia, non chimica e tecnologia farmaceutica. Che è diverso, giusto? Sì, è leggermente diverso, hanno più ovviamente chimica e più tecnica loro, noi siamo più per il negozio, per il laboratorio. Banalmente. Giorgio, ti ringrazio molto, ciao e buona giornata. Ciao, grazie ancora. Volevo chiudere invece con un ultimo pezzo che mi manda, un ultimo pezzo prima della borsa. C'è la borsa, vero? Non fanno la riunione di, come si chiama, redazione? CDR, no. È un pezzo che mi manda Silvia ed è tratto dall'Inventore dei Sogni di Ian McEwan. E oltre tutto questo umano fermento, l'oceano si gonfiava e si ripiegava, perché a nulla e nessuno è dato di restare fermo, non agli uomini, non all'acqua e neppure al tempo. «Un tesoro!» esclamò ancora Kate. «Eccomi!» gridò Peter. «Arrivo!» e si lanciò di corsa verso la battigia. Si sentiva agile e leggerissimo sulla sabbia. Questo pezzo me lo manda Silvia, che non capisco da dove scriva perché non me l'ha segnato. Vi ricordo però, visto che continuate a mandarmi questi pezzi che stanno arrivando e non riuscirò chiaramente a leggerli tutti, che esiste anche una mail che è iosonoqui@radio24.it, che vale tanto quanto vale il profilo Facebook. Il profilo Facebook invece si chiama Matteo Caccia, io sono qui. Andate sul profilo, cliccate su mi piace e siete parte del grande mondo di Radio 24 ed io sono qui. A questo proposito, Radio 24 ha una fanpage anch'essa, che è semplicemente Radio 24. Lì la nostra webmaster Valeria Iosiello tutti i giorni carica della roba. Insomma, andate a vedere e trovate tutto quello che vi interessa su Radio 24. Adesso la borsa e poi io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto di oggi siamo su un tetto. Non è una protesta, credo che sia semplicemente la voglia di scattare una foto da un tetto, o forse semplicemente da un terrazzo sopra un tetto. In primo piano ci sono delle impalcature, quindi credo che ci sia una casa in ristrutturazione. Però appena dietro si scorge il panorama, che è magnifico, è un paese di montagna. Non sembrerebbe una montagna particolarmente alta, perché le case non sono proprio tutte case da montagna, ci sono anche degli appartamenti abbastanza cittadini. C'è il sole, c'è una bella chiesa con un sagrato, con un grande portico, una scalinata, ci sono due o tre costruzioni in pietra e non ho idea di dove siamo però. Daniele Cavagna, 27 anni, oltre il colle. Dal tetto di casa mia c'è un panorama splendido. Sotto questo tetto io e lei passeremo la nostra vita insieme. Io scriverò i miei libri, lei cullerà gli ospiti del nostro bed and breakfast e non vorrei essere altrove. Io sono qui. Daniele, ti auguro ogni bene. Scrivere libri, farti coccolare da lei, che non sappiamo se è tua moglie o la tua compagna. Oltretutto, lei gestisce il bed and breakfast. Lui, Daniele no. Daniele scrive libri. Ma ha detto dove? No, ha detto oltre il colle. Oltre il colle credo sia un posto. Sì, deve essere. No, se dico che è sopra Bergamo. Allora, chissà dove è oltre il colle. 3492386666. Così è sempre più facile. Anche perché mi scrivono: il protagonista era Burt Lancaster e non l'altro. Però altri mi scrivono: sai che hanno fatto un film con Kirk Douglas nel 57 o nel 58? Questo però è poco affidabile, perché si scrive nel 57 e 58. E poi mi è arrivato un messaggio di Marta. Che mi scrive che non mi scrive nulla a proposito di libri o di pezzi di parole che è scritti da altri che la rappresentano. Mi racconta di una cosa simile a quella che mi è successa questo fine settimana. Ho rivisto un vecchio compagno delle medie. Ha avuto un brutto incidente anni fa e gli ha causato dei danni cerebrali. Una sorta di follia, mi scrive. Ho fatto un commento sul suo zaino, tipo: ma me lo ricordo, ce l'hai da una vita. E lui mi ha guardato e mi ha detto: beh, se ci pensi, tutto c'è da una vita. E mi sa che c'ha ragione pure lui. 800240024 349-238-6666. Tra i messaggi che mi sono arrivati oggi, quello per cui mi sono confuso prima con Giorgio, mi è arrivato quello di Paola. Pronto, Paola? Ciao. Ciao, buongiorno Paola. Senti, io ti ringrazio soprattutto non per avermi citato il libro di cui adesso parleremo, ma per avermi mandato la foto. Spiega tutto tu, Paola. Allora, premessa, secondo me è un argomento molto bello quello che stai trattando oggi. Mi fai un po' l'editoriale, Paola, tipo oggi sì, ieri un po' meno, domani di cosa ieri parliamo? Insomma, tu hai letto un libro che, sì. più il libro in sé o più il titolo in particolar modo ti ha segnato? Ma il libro in sé mi ha segnata molto, e in particolar modo il titolo, che è In ogni caso nessun rimorso, che è un libro di Pino Cacucci, tra l'altro di almeno una decina d'anni fa, se non sbaglio, forse di più. Sì, esatto, io l'ho letto la prima volta 7-8 anni fa. Di che cosa racconta, velocemente, per chi non l'abbia letto, tra cui io? È la biografia romanzata di un vecchio anarchico francese, Jules Bonneau, che è stato il primo rapinatore a effettuare rapine con l'automobile. Senti, dove sei che hai le quattro frecce, Paola? Sono a bordo strada, a no, Cremona. Cremona, ok. Sì. La cosa interessante di tutto questo è che Paola è rimasta talmente affascinata dal titolo di questo libro, che è In ogni caso nessun rimorso, che se l'è tatuata, io non capisco, è sulla pancia? È la schiena. Giustamente, perché non c'è l'ombelico, altrimenti... Saresti una donna senza ombelico, non sarebbe carino. Io ho già chiesto preventivamente il permesso a Paola, e appena uscirò da qui, se non lo può fare Viola, ma non credo perché devo farlo io dal mio profilo, caricherò la fotografia del tuo tatuaggio, perché non c'è solo la scritta In ogni caso nessun rimorso, ma c'è chi è, sei tu con una fionda in mano? È un disegno. No, che sia un disegno, certo, lo immagino. Però c'è una donna con un abito al vento, i capelli al vento, con in mano una fionda. Sì, perché vabbè, ho trovato, come dire, il disegno e le parole che mi rappresentavano meglio. Senti, credo. Quanti anni avevi quando l'hai fatto? Il tatuaggio? Sì. L'ho fatto l'anno scorso, 27. Ah, quindi è ancora fresco, quindi ancora sì, i rimorsi nei confronti del tatuaggio non sono arrivati? No, no, no, no. Certo, sai che prima o poi arriveranno tutti quelli che hanno un tatuaggio, prima o poi dicono non l'avessi fatto, magari anche a 60 anni. Non so, sai, penso che i rimorsi alla fine siano... ti sei tatuata, in ogni caso nessun rimorso, che te ne frega dei rimorsi. Esatto, senti, è una cosa del tutto inutile. L'hai meditato oppure hai preso e sei andata a farlo? No, no, l'ho meditato. Ho aspettato, l'hai pure meditato per anni l'immagine che potesse corrispondere a quella scritta lì. Senti Paola, mentre sto facendo vedere di là in regia la foto del tuo tatuaggio e ci sono delle facce strabiliate, io ti ringrazio moltissimo e grazie per tutti quelli che volessero vederlo più tardi sul profilo Matteo Caccia, io sono qui di Facebook. Ciao Paola, grazie. Ciao, buona giornata. Andiamo da un'altra ascoltatrice che è Chiara. Pronto Chiara? Pronto Matteo. Dove sei Chiara? Sono nello spogliatoio di una piscina, senti il rimbombo, immagino. Un pochettino sì. Tu cosa fai, dei corsi o sei istruttrice? Sono istruttrice. Lo fai di mestiere? Sì, lo faccio di mestiere ormai, da tanto, 10 anni. Sei guarda. Una nuotatrice quindi? Sì, ora una palla nuotista. Ah sì? Da quando? Sì, da poco, nuotatrice da tanto, palla nuotista da aprile, sì, non tantissimo. Senti, ma sei mica di Livorno, te? No, no, sono di Prato. Sei di Prato, scusami. Quanti anni hai, Chiara? 28. 28? Oh, ok, perfetto. Anche se ne dimostri di meno, dalla voce intendo dire. Il lavoro mi mantiene giovane. Nella voce? Va bene. Chiara, senti, tu mi hai mandato un pezzo magnifico che è tratto da Guida Galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams. Leggimelo tu nel rimbombo della piscina di Prato. Va bene. Vai. Allora, questo pianeta ha, o meglio aveva, un fondamentale problema. La maggior parte dei suoi abitanti era afflitta da quasi costante infelicità. Per risolvere il problema di questa infelicità furono suggerite varie proposte, ma queste per lo più concernevano lo scambio continuo di pezzetti di carta verde, un fatto indubbiamente strano, visto che essere infelici non erano i pezzetti di carta verde, ma gli abitanti del pianeta. Chiara, ti ringrazio moltissimo, in bocca al lupo per tutto. Grazie, complimenti per la trasmissione. Ciao, grazie. Ciao. Mi è un po' spiaciuto che non mi abbia detto l'argomento della puntata di oggi è buono. Gli altri invece, una delle prime pagine del cavallo Posso, rosso sarà, di Eugenio Corti. Il giovane protagonista misura la propria forza con il padre mentre falcia l'erba. Mi commuove ogni volta che lo rileggo perché lo facevo anche io con il mio papà. Giampi da Vicenza. Abbiamo un'altra telefonata, andiamo da Antonio, da Catanzaro. Pronto Antonio? Sì, ciao Matteo. Ciao, grande. Come va? Grande. Tutto bene. Grande. Senti. Chi? Io o tu? Grande tu. Va bene, faccio tutte e due. Dimmi, tu ce l'hai a memoria addirittura, un passaggio, sì, di che cosa? Allora, il passaggio di un libro che mi fu regalato dalla mia maestra di scuola elementare, che avvenne nel 79 e che fondamentalmente formò, diciamo così, tutta la mia adolescenza fino ad arrivare alla mia formazione politica. Addirittura? Sì, è un brevissimo passaggio che nel 79 io avevo 8 anni, sì, e mi prese tantissimo. Considero che con questo testo sì, io ci feci l'esame di scuola media, l'esame di scuola superiore e presi un ottimo nei voti. Senti, dimmi che testo è e poi recitami. Allora, il passaggio. Allora, il titolo del libro non lo ricordo, però il testo è questo: da alcuni anni a questa parte il mondo va sommergendosi con poche speranze di salvezza in un mare di problemi. L'uomo è diventato una macchina spietata e senza cuore, che pur di procurarsi una vita terrena elevata non si preoccupa dei suoi simili. Punto. Con questi iniziali, diciamo, di punto. Con questo periodo, io ho letto tutto quello che stava accadendo nel mondo. Se noi guardiamo poi a tutto quello che è successo in un ragazzo di 8 anni all'epoca. Ma Antonio, tra l'altro, scusami se per farlo presente, tu non lo stai leggendo, tu ce l'hai no, a memoria. No, a memoria sì, perché assolutamente sono no, in macchina. Ma ci credo, figurati, sì, semplicemente lo ribadivo per chiunque fosse all'ascolto. Sì. Senti Antonio, ti è servito, tu dicevi, anche per la tua carriera politica e professionale, che cosa fai adesso nella vita? Allora, io adesso non faccio politica, cioè faccio politica attiva, ma non è il tuo mestiere. Non è il mio non mestiere, ancora. Io faccio l'agente di commercio e vado avanti così, diciamo. Però se tu riascolti questa frase ti rendi conto di come effettivamente il mondo sta andando a rotoli semplicemente perché l'uomo non è più al centro della vita. E allora Antonio, facciamo una cosa, ripetimela e poi ti saluto, vai. Ok, da alcuni anni a questa parte il mondo va sommergendosi con poche speranze di salvezza in un mare di problemi. L'uomo è diventato una macchina spietata e senza cuore, che pur di procurarsi una vita terrena elevata non si preoccupa più dei suoi simili. Antonio, grazie mille, in bocca al lupo ciao, per Matteo, tutto. Ciao, grazie. Ciao. Ultimi messaggi, oltre il colle Val Brembana di Bergamo. E poi Massimo che mi dice, puoi dire a Paola che mi sono innamorato? Ragazzi, così è veramente troppo facile. Vi voglio lasciare con il pezzo di un libro, che è un libro che abbiamo letto praticamente insieme, o meglio me l'ha suggerito lui, poi l'ho letto anch'io, io e Tiziano Bonini, visto che in qualche modo abbiamo delle cose che io e lui che ci somigliano, anche perché fondamentalmente frequento più lui che mia madre praticamente negli ultimi 3 anni di vita, vi leggo questo che è il prologo di un libro di 3 o 4 anni fa mi pare, che si chiama Tutti gli intellettuali giovani e tristi. A New York loro risparmiavano. Risparmiavano sul succo d'arancia, sul pane in cassetta, sul caffè, sui film, le riviste, l'ingresso ai musei, sul biglietto del treno della metro, sull'appartamento fuori mano nel Queens. Era una sorta di principio a cui non si derogava. Mark e Sasha quell'anno vivevano sulla linea 7 della metro e quando uscivano, su nel Queens, Mark seguiva Sasha come un bimbo mentre lei studiava e confrontava i prezzi dei 2 alimentari coreani in modo da risparmiare sulla frutta, la verdura e qualche piccola specialità orientale. Risparmiavano anche sui vestiti. Era il 1998 ed erano innamorati. Si erano lasciati alle spalle il college, la Mosca dove Sasha aveva trascorso l'infanzia e la periferia residenziale americana dove l'aveva trascorsa Mark. Eppure erano riusciti in qualche modo a sfuggire a tutto questo con la giovinezza ancora intatta. Vivere a New York con pochi soldi era un po' umiliante, ma essere giovani era divino. Se uno avesse avuto più soldi di quelli che avevano loro quell'anno, sarebbe semplicemente invecchiato prima. E così, con il sorriso in faccia, loro risparmiavano. Era il 1998 ed erano arrabbiati. E in quell'appartamento, nel loro bellissimo appartamento del Queens, Mark e Sasha sapevano soltanto che l'unica cosa che avevano era l'altro. E sapevano anche, già nel 1998 lo sapevano, che non gli sarebbe bastato. Questo è Io sono qui, questa è Radio 24, io ringrazio Tiziano Bonini, ringrazio Paolino Corleoni e Viola Bottoni. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi, dove siete?